Carissimi ragazzi e ragazze in ascolto, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio da Don Leonardo Maria Pompei per una nuova puntata di Spazio Giovane in cui, a Dio piacendo, oggi riusciremo a finire il settimo comandamento e quindi cominciamo a vedere l'addirittura di arrivo di questo ciclo di catechesi che sicuramente prima di Natale dovrà essere giunto al termine. Se ricordate la puntata precedente, abbiamo affrontato un tema un po' caldo, che era la morale cattolica, diciamo così, per quanto concerne il dovere di pagare le tasse, ecco, con alcune precisazioni. E con alcune puntualizzazioni circa la giustizia sostanziale che tutti sono tenuti ad osservare su questo punto, punto che vorrei ricordare riguarda non solo e non principalmente il settimo comandamento, ma il quarto, come abbiamo avuto modo di notare, e che assieme alla esecuzione da parte dei poveri cittadini contribuenti richiede anche l'osservanza di alcuni criteri di giustizia sostanziale da parte del legislatore, ecco, sotto pena di come dire, illegittimità morale, ovviamente morale, abbiamo distinto la volta scorsa, non almeno negli stati moderni di diritto giuridica, comunque illegittimità morale di esigere tributi, quando tributi esorbitano, come abbiamo visto, quindi vanno al di là di alcuni principi di giustizia sostanziale, sia per quanto riguarda l'ammontare del contributo richiesto, e sia per quanto riguarda l'uso che i pubblici amministratori fanno dei soldi di tutti i cittadini, quindi dei soldi di tutti. Oggi dobbiamo chiudere un po' questo argomento del settimo comandamento. E come vi accennavo, dovremmo trattare in conclusione alcuni ulteriori aspetti, potremmo chiamarlo così, quest'ultima parte della dottrina sociale della Chiesa. Vi ricordate? Io cercavo di introdurre questo tema nella prima puntata, un pochino introduttoria, cercando di far comprendere i principi generalissimi a cui si ispira alla dottrina sociale della Chiesa. Adesso sarà il caso di riprendere alcune affermazioni e di cercare di comprendere un po' che cos'è la dottrina sociale della Chiesa, quindi spendere qualche altra parola. Dal momento che si tocca di temi, si toccano temi molto molto delicati, molto importanti e tra l'altro recentemente venuti come dire, alla ribalta dei riflettori con alcuni eventi di cronaca. Quindi è bene comprendere quali sono i criteri che animano il Magistero della Chiesa in questa materia. Tenendo presente anche che, per esempio, c'è stato un documento recentissimo del Magistero che era Caritas in Veritate, di Benedetto XVI, il cosiddetto Papa Emerito, adesso bisogna chiamarlo così, che ha trattato in maniera molto approfondita questa materia. Tra l'altro la Caritas in Veritate è un'enciclica di non facile accessibilità, cioè si vede chiaramente che nella sua stesura il pontefice ha fatto riferimento, forse ha fatto appello, forse ha anche chiesto dei consigli proprio pratico-operativi a degli esperti in materia, perché tratta alcuni argomenti economici complessi, con una tale proprietà di linguaggio, un tale dettaglio, che a meno di non pensare di avere sappiamo tutti che Benedetto XVI era un papa coltissimo. È un papa coltissimo perché in qualche modo è ancora vivente. Pensare che sia tutto farina del suo sacco, io glielo auguro, insomma, ma è davvero, davvero un po'. Insomma, io ho fatto fatica a seguire alcuni passaggi, eppure a suo tempo, quando tanti anni fa facevo l'università, ho fatto anche un esame di economia politica, insomma, però ho fatto fatica a leggere alcuni passaggi e a seguirli in alcuni passaggi, quindi si tratta di argomenti a cui l'uomo contemporaneo, ma soprattutto l'opinione pubblica, diciamo così, contemporanea, è molto sensibile, come del resto si vede da alcune risonanze che ricevono anche alcuni interventi dell'attuale vescovo di Roma. E quindi, ebbene, certamente non è possibile fare una presentazione organica e sistematica della dottrina sociale della Chiesa perché ci vorrebbe un ciclo di catechesi ad hoc. Però un'introduzione prima di chiudere il settimo comandamento, dal momento che molti dei principi e delle indicazioni date su questa materia sono di natura appunto socio-economica, e quindi toccano il settimo comandamento, penso che sia bene per dovere di completezza e fornirlo prima di chiudere questo capitolo. Allora, che cos'è anzitutto la dottrina sociale della Chiesa? Diciamo che i primi interventi dei pontefici che adesso vedremo su questo argomento non intendevano creare, come dire, una sorta di nuova branca del magistero della Chiesa, furono dettati da motivazioni contingenti. Il fatto che poi però ci furono una serie di importanti documenti, sia dei pontefici sia anche del Concilio Vaticano II, che ripresero e trattarono in maniera organica e sistematica alcuni argomenti, fece in modo che si creasse un corpus dottrinale, diciamo così, omogeneo, che oggi viene chiamato appunto dottrina sociale della Chiesa. Quindi è una sistematizzazione e una nomenclatura che è stata data a questi insegnamenti a posteriori, quindi nessuno pensava o voleva esplicitamente, come dire, fondare qualcosa di nuovo. Il primo Papa, che vedremo subito, Leone XIII, che ha affrontato nel dettaglio una serie di argomenti riguardanti questa materia, lo ha fatto semplicemente come successore di Pietro, per intervenire dando un pochino di luce su alcune realtà contingenti gravi dei suoi tempi. Comunque, anche se diciamo è stato un fenomeno, come dire, di produzione casuale, ora chiaramente non è più così, perché ora è diventato veramente qualcosa di distinto e di importante. Possiamo, diciamo così, agglomerare sotto il nome di dottrina sociale della Chiesa quel corpo unitario di insegnamenti magisteriali della Chiesa, chiaramente, inerenti questioni di natura economica, sociale e politica, il cui punto d'inizio, ecco, è tradizionalmente fatto coincidere con l'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII, che è data 1891. L'ultimo in ordine cronologico è la Caritas in Veritate, quindi del 2009, quindi dalla Rerum Novarum alla Caritas in Veritate ci sono stati altri passaggi fondamentali su questi argomenti, di cui cito soltanto i principali: la Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la Populorum Progressio, enciclica di Paolo VI del 67, e la Centesimus Annus del Beato Giovanni Paolo II del 91. Si potrebbe cogliere qualche insegnamento di questa materia anche nella Pacem in Terris del Beato Giovanni XXIII, che mi sembra che sia del, non mi ricordo se del 61, del 62 o del 63, uno di questi 3 anni, o del 60, insomma, il pontificato è stato breve, il pontificato di Giovanni XXIII. Ecco, comunque, questo, diciamo, è come dire, il corpus dottrinale, diciamo, le fonti principali di questo, chiamiamo così, per certi aspetti, distinto e autonomo corpus dottrinale. Che cosa era successo? Qual è stata la motivazione contingente per cui si è venuto generando e articolando questo peculiare aspetto del magistero della Chiesa quasi spontaneamente? Le motivazioni sono molto semplici: è stata la rivoluzione industriale. Sappiamo tutti quanti dalla storia, diciamo, intorno a partire dalla prima metà e poi culminando nella seconda metà dell'Ottocento, c'è stato quel fenomeno epocale, davvero epocale, che è stata la rivoluzione industriale, che ha letteralmente stravolto e cancellato millenni di stili e consuetudini economiche, fino a portarci, come tutti sanno, all'attuale situazione di economia di mercato globalizzata. Io vi invito, ragazzi e ragazze carissimi, e lo sto facendo, e ci sto meditando anch'io, a meditare e a pensare cosa questo abbia comportato. Io vedo i giovanotti, anche piccolini, vedo i bambini, vedo i figli dei miei parrocchiani, dei miei fedeli, che tranquillamente a 4-5 anni, smanettano su. Non soltanto su giochi per loro, quindi su come si chiamano, sulla PlayStation, sul Nintendo, come si chiama, sul Game Box, tutta sta roba qua. Ma questi smanettano tranquillamente su iPhone, su iPad e già parlano, cioè stanno tranquillamente davanti a un computer. Noi non ci rendiamo conto della, come dire, dell'accelerazione che sono state date a queste cose, no? Pensate soltanto, ragazzi, al fatto che noi possiamo adesso sentirci via radio, non ci siamo mai visti di persona, e siamo attraverso una serie di conquiste tecnologiche in questo momento in contatto diretto, reale, perché chi sta ascoltando la diretta ascolta la mia voce, certamente non vede la mia faccia, ma ascolta la mia voce in tempo reale, pur trovandosi. Radio Buon Consiglio trasmette a dimensione nazionale in FM, però, perché trasmette anche online, per cui se qualcuno volesse potrebbe collegarsi dall'altra parte del mondo ora, dagli Stati Uniti, dal Brasile, dalla Cina se vuole, e basta che clicca l'indirizzo web corretto e sente la mia voce in diretta dall'altra parte del mondo. Noi ci siamo abituati a queste cose adesso, no? Però guardate che non sono cose così. Sono cose grosse. Queste cose grosse sono partite da questa rivoluzione reale. Cioè, io penso per esempio alla vita di un parroco di oggi, no? Io occupo una discreta parte del ministero e diventa sempre più ampia a quello che io chiamo il cosiddetto apostolato multimediale. Che vi assicuro, ragazzi, è un lavoro. Cioè, soltanto rispondere alle richieste di amicizia su Facebook, cercare di capire delicatamente chi è che ti fa quella richiesta, perché ti contatta, leggere l'email, come dire, mandare un upload, una registrazione, un video, eccetera, eccetera. Vi assicuro che porta un sacco di tempo dietro. Quindi, certamente non era quello che faceva il salto curato d'Ars. Pur con le debite distanze, no? Il santo curato d'Ars, allora se volevi sentire la parola del santo curato d'Ars dovevi andare e farti un bel viaggetto in quello sperduto villaggio della Francia e andarla a sentire, no? E adesso non è così. Io ho incontrato e conosciuto persone molto lontane da qui che la mia voce la conoscono benissimo e che quello che dico poveramente lo hanno ascoltato, lo hanno compreso, l'hanno pure messo in pratica e se lo ricordano meglio di come lo ricordo io, che poi dimentico per forza di cose ciò che racconto. Quindi queste sono cose, capite? Cioè, c'è un cambio reale di prospettiva di vita, no? Questo sia in bene sia in male, no? Una di questi documenti che ho citato, ma era anche come dire, un pensiero accorato del beato Giovanni Paolo II, dice: guardate, il mondo oggi ha raggiunto un progresso tale che è un bivio, può fare di questo mondo un rinnovato giardino, perché, oppure può trasformarlo in un cimitero, perché insomma, il progresso ha anche comportato, abbiamo visto recentemente quello che è successo in Siria, no? La creazione di nuove forme micidiali, insomma, di armi. E le armi chimiche e le armi atomiche. Bisogna stare attenti che oggi se si combatte una guerra non si scende nel campo di battaglia con l'ascia e con la scure, con la spada e con l'arco, a giocare ai soldatini. Olio, si schiaccia un pulsante e si distrugge completamente una nazione, e non soltanto si distrugge ad hoc. Se uno spara una bomba atomica ci vogliono 20-30 anni prima che quel posto forse ridiventi abitabile. Cioè, dobbiamo renderci conto di queste cose, no? Vi dico questo perché è assolutamente importante che noi viviamo come figli del nostro tempo, cioè la Chiesa è subito intervenuta per non lasciarsi, come dire, scappare di mano, perché per esempio prima che parlasse Papa Leone XIII, i problemi e le questioni e anche le gravi ingiustizie insorte a seguito della rivoluzione industriale, ricordate la storia, l'abbiamo studiato tutti quanti, quindi gli sfruttamenti selvaggi delle persone che in Inghilterra lavoravano 12-14 ore, anche i bambini malnutriti, denutriti, sottopagati, eccetera, eccetera. Da chi furono prese quelle istanze? Dai comunisti. Il Partito Comunista nacque in questo contesto storico e fece breccia nei cuori. Perché? Perché sembrava che fosse il difensore delle ragioni dei più poveri, sfruttati e oppressi da parte dei più ricchi. Noi sappiamo che non è così, magari fosse solo questo, perché saremmo tutti, potremmo, capitemi bene quello che voglio dire, mi raccomando, potremmo essere tutti comunisti se fosse solo così. Il comunismo è ben altro, perché il comunismo ha teorizzato l'ateismo, la morte di Dio, riducendo l'uomo, come dire, a un ammasso di cellule, quindi facendo della questione sociale l'unica questione importante della vita terrena, teorizzando la lotta di classe, tutte quante cose che sono assolutamente inaccettabili per una visione cristiana della vita, no? Però, prendendosi cura di questa situazione, facendosi interprete di queste nuove problematiche, chiaramente il comunismo ha monopolizzato la questione ed è apparso come il difensore dei poveri e come il riscatto possibile dalle ingiustizie. D'accordo? Qualcuno dice, forse non senza ragione, senza che con questo si voglia fare una critica, che purtroppo la Chiesa è scesa in campo con un pochino di ritardo. Ovviamente un ritardo incolpevole, no? Perché cioè, noi siamo tutti quanti limitati, no? Ora bisogna fare attenzione, però, per esempio, questo lo dico con forza, insomma, anche a tutti gli uomini di Chiesa, a non arrivare in ritardo, come già ci siamo, secondo me, sui mezzi di comunicazione sociale. Io ringrazio Radio Buon Consiglio, ma ringrazio per esempio anche, sapete che l'Istituto dei Francescani dell'Immacolata ha preso molto sul serio l'intuizione di San Massimiliano Maria Kolbe, no? San Massimiliano Maria Kolbe non è stato soltanto un grande santo mariano, ecco, ma è stato anche un grande uomo di Dio e un grande uomo, come dire, aperto. Oggi parlano tutti dei segni dei tempi, stanno sempre a nominarsi i segni dei tempi. Quali erano i segni dei tempi? I segni dei tempi è che, cioè, a fronte delle conquiste moderne, allora c'era la stampa, cioè tu devi capire che tu devi scendere in campo nella stampa, no? Perché la stampa ti permette di stampare 10 milioni di copie, come arrivarono quei poveri frati del Cavaliere dell'Immacolata e diffondono in tutto il mondo. Cioè, per arrivare a 10 milioni di persone, ma dovevi andare a predicare? Immaginate le forme classiche della predicazione, no? Certo, si dice che ad Ars ci sono passate a quei tempi 200-300.000 persone in pellegrinaggio. Non sono tantissime. 200-300.000 persone, tu oggi, se usi bene i mezzi di comunicazione e in qualche modo acquisisci una certa visibilità, ma 200-300.000 persone li contatti subito, subito. Io sono già arrivato a numeri non distanti da questi sul mio canale YouTube. In un anno e mezzo di vita e non sono nessuno, capite? Cioè, noi non possiamo stare fuori rispetto a questa cosa, cioè, perché se è vero che il web, Facebook, internet, YouTube, tutto quello che volete, è utilizzato per la stragrande maggioranza dei casi per diffondere il male, la pornografia, a volte la pedofilia. Facebook a volte diventa un immondezzaio di luoghi dove si parla, si sparla, si sproloquia. Infatti per questo che mi tocca controllare, perché io non voglio assolutamente, per esempio, che la mia bacheca diventi una specie di io lo chiamo così, di bacheca da talk show, pubblico di bassa lega, insomma, dove si cominciano a dare insulti, cose, volgarità, trivialità, piccinerie o cose di questo genere, perché non è questa l'intenzione, no? Però non dobbiamo avere paura, non possiamo chiamarci fuori, perché siamo fuori, ci stanno degli appuntamenti della storia, capite? Per esempio, il fatto che i comunisti, che hanno chiaramente alle spalle l'elezione di qualcuno, sono arrivati allora prima di noi, che ha comportato? Ha comportato il comunismo, ha dominato per mezzo mondo, mica per poco, perché tra Russia e Cina c'era la metà del mondo, la metà degli abitanti del mondo erano sotto sta cappa, in Cina ci stanno ancora. Capite? Allora una discesa in campo magari più incisiva e più tempestiva, senza con questo voler accusare nessuno perché siamo tutti dei poveracci, però la storia è magistra vitae, no? Diceva qualcuno, quindi è meglio farne tesoro. Noi dobbiamo prenderle queste cose. Certo che Padre Pio, quando gli dissero che avevano inventato la televisione, lo sapete questa aneddoto, no? Si arrabbiò tantissimo e rimase, non so se 2 o 3 giorni senza parlare con nessuno. Allora qualcuno andò a dirgli, dice: ma scusa padre, ma ti immagini la televisione? Ma tu ti pensi quanto bene si potrà fare con questo strumento? Sapete che ha risposto Padre Pio? Ma io lo so quanto bene si potrà fare, però purtroppo lo useranno quasi esclusivamente per fare il male. E non va bene questo qui, non va bene. Io soffro tantissimo, ragazzi, perdonate che adesso ci si è entrati in mezzo a questo piccolo sfogo. Voi siete, insomma, dico, perché noi cattolici non dobbiamo fare buona televisione? Perché, per esempio, perché non dobbiamo spendere e investire dentro il buon cinema? Certo, non è possibile che al primo film che farai ci avrai un boom di botteghino, però è fondamentale che questo sia fatto. I più bei film a sfondo cattolico, diciamo così, o meglio, a sfondo spirituale, sono fatti dai nostri fratelli separati. Io i 2 film più belli che ho visto, riconoscono anche i Francescani dell'Immacolato, ho trovato i DVD in qualche loro monastero, sono Fireproof, Prova di fuoco, non so se l'avete visto, e quell'altro che parla porca, mi sfugge il titolo adesso, e quell'altro che parla della figura del padre, sempre dello stesso regista. Courageous, ecco, adesso mi è venuto in mente. Sono 2 film stupendi che, oltre ad avere degli altissimi messaggi, perché il primo narra la ricostruzione di un matrimonio distrutto, guardate, con uno scavo e con un esame stupendo, e il secondo narra dell'importanza della figura del padre, dei compiti genitoriali, di come bisogna stare attenti a prendere questo lavoro sul serio, delle occasioni perse che ci possono stare, no? Però tu per raccontare una cosa del genere non puoi fare un film pesante come non mai, con le musiche che fanno schifo, con la fotografia che fa schifo, con la sceneggiatura che fa schifo, col montaggio che fa schifo, lento, brutto, non se lo vede nessuno. Devi fare un film come Dio comanda, deve essere più bello di quelli di Peter Jackson, deve essere. Scusate, e ci devi spendere i soldi per fare un film bello così. Ma noi possiamo stare fuori da questa realtà. Io, per grazie di Dio, ho conosciuto qualche personaggio anche del mondo dello spettacolo e gli ho detto: mi raccomando, vai, fai, fa il possibile, fai tutto quello che puoi, buttaci i soldi, investi, chiama i registi, chiama gli imprenditori, fa qualcosa. Non possiamo, no? Aiutiamo anche le buone radio, perché, capite? Bisogna spendere i soldi per queste cose qui. Non sono soldi buttati, sono soldi sacrosanti. Che noi dobbiamo investire per il Vangelo e queste cose vanno, funzionano. Certo, bisogna lavorarci, dedicarci tempo, energie e spesso tanti soldi. Ma dobbiamo essere certi che non possiamo scampare e scappare o farci trovare impreparati ai cosiddetti appuntamenti della storia, che ci sono. Se non rispondiamo, non risponderà qualcun altro. E rispondendo qualcun altro si porterà via le anime e le porterà all'inferno, spesso e volentieri. Perdonatemi se uso un linguaggio così esplicito. Chiusa la parentesi. Allora, ritorniamo a questa Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Sono arrivati i comunisti, purtroppo. E questo era un campo in cui la Chiesa non poteva e non doveva lasciare mano libera ai nemici di Dio, che purtroppo, come di fatto è avvenuto, ingannando tanta povera gente, in perfetta buona fede, conquistavano larghissimi consensi. Ecco qui, ed ecco la piaga degli stati comunisti. E ancora, oltre 1 miliardo di cinesi, e non solo, perché a Cuba anche c'è ancora il regime comunista, vivono sotto il giogo della bandiera rossa marchiata con la falce e il martello. In questa enciclica il Papa cercò di dare dei criteri di lettura cristiana e cattolica di quella disastrosa situazione di ingiustizia sociale che si era verificata a partire dalla rivoluzione industriale. Ecco, sapete che Leone XIII è stato un grande Papa, io spero che sia presto fatto beato. È chiamato il Papa del Rosario perché era devotissimo alla Madonna e ha scritto un'enciclica molto bella del Rosario. Noi siamo nel mese del Rosario adesso, quindi mi raccomando, ragazzi, stiamo sempre con l'arma del Rosario in mano e non lasciamoci mai cogliere impreparati, ecco, sapendo che il più grande combattimento, oltre che con i mezzi moderni di comunicazione, si combatte sempre con le ginocchia piegate e la corona in mano. Allora, dopo questo intervento, a più riprese il Magistero della Chiesa è intervenuto, soprattutto a partire dagli anni 60, per la verità, per dare appunto criteri di orientamento per la vita sociale dei cristiani. E qui apriamo un discorso, non certo con la pretesa di sostituirsi alle autorità preposte al governo e alla scelta degli indirizzi politici ed economici da dare agli stati. Ogni tanto qualcuno contesta questa azione della Chiesa perché dice: ah no, qui la Chiesa si ingerisce in materie riservate allo Stato laico. Adesso vedremo subito la grande sciocchezza che è questa affermazione, che non è vera. La Chiesa obbedisce al suo mandato di operare per la salvezza delle anime. Però, ieri ho fatto un'altra trasmissione su un'altra emittente web. Voi lo sapevate che San Giuseppe appariva ad alcune persone per portargli i soldi per pagare i propri debiti, tipo il beato Luigi Orione, ci ha avuto un'apparizione di San Giuseppe, gli ha consegnato una busta piena di soldi per pagare i debiti. Cioè, noi non possiamo diventare spiritualisti, cioè la realtà politica, sociale ed economica certamente ha delle leggi e delle modalità di essere gestite distinte e autonome rispetto al campo della fede, ma toccando la persona è sempre coinvolta ed è coinvolta anche nella dimensione di fede perché vive la fede in questa vita terrena, immersa in questo mondo, dentro un certo sistema politico, dentro un tessuto sociale e dentro alcune leggi economiche. Perché se tu hai una famiglia la tartassi e la massacri di tasse, la induci in peccato, quantomeno nel peccato di usare la contraccezione. Se non c'ha la fede eroica, come dovrebbe, ma che purtroppo può essere messa sotto scacco, di non fidarsi del Padre Eterno e di aprirsi alla vita, nonostante il fatto che già in quattro persone riescano ad arrivare alla fine del mese. Quindi non è, dice, ma questa è materia economica, quindi tu Chiesa stai zitto, che ci pensiamo noi, beh, abbiamo visto quanto ci pensano bene, a fare le leggi. No, non è materia indifferente. Perché questa dimensione, che ha comunque anche una sua configurazione morale su cui la Chiesa deve parlare, ha poi un risvolto ancora più incidente su altri aspetti della vita sociale. Se tu ingeri una situazione di povertà diffusa, aizzi i crimini. Se tu ingeri in una situazione di immoralità diffusa, a tutti i livelli, favorisci il dilagare di condotte che sono anche reati, ma che sono gravemente contrari alla morale. Quindi non è aspetto indifferente su cui dobbiamo stare zitti. Facciamo sempre una piccola pausa, dato che sono le 17, per salutare la Madonna con l'Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Proseguiamo. Allora, per comprendere bene questo punto con cui ho prima diciamo concluso il discorso prima del saluto alla Madonna, dobbiamo leggere un numero del Catechismo Nuovo della Chiesa Cattolica, dove spiega che la Chiesa dà un giudizio, attenti bene, morale, su cui è sempre competente. Ricordate sempre, adesso poi dirò subito una cosa, in materia economica e sociale, quando ciò sia richiesto dai diritti fondamentali della persona che interessano la Chiesa, perché la persona è creata da Dio ed è immagine e somiglianza di Dio, oppure dalla salvezza delle anime. Perché che una persona commetta o non commetta un peccato mortale, spinta da un'ingiustizia morale, a come non importa la salvezza delle anime? Quindi, interessandosi degli aspetti del temporale e del bene comune, in quanto sono sempre ordinati, in quanto sono ordinati al bene supremo. Quindi non si tratta di indebita invasione di campo o di violazione di competenze, perché la Chiesa si occupa sempre di queste cose in vista del bene delle anime. In vista del bene delle anime. Ho parlato di giudizio morale. State attenti, questo è fondamentale, eh? Il magistero della Chiesa. Qui vi parlo, perdonatemi, con la competenza che ho da un punto di vista teologico, che mi abilita a dire queste cose. Facciamo attenzione perché qui già altre volte ho evidenziato questo punto. Prima di parlare di Chiesa o di Magistero della Chiesa, ragazzi e ragazze carissime, dobbiamo fare estrema attenzione. Estrema attenzione. Si può parlare di magistero della Chiesa oppure in senso stretto soltanto in presenza di un intervento o di un documento ufficiale. Attenzione, e i documenti ufficiali che possono avere il crisma di magistero in senso stretto sono, per quello che riguarda i vescovi, solo, magistero vi dico in senso stretto solo, i documenti dei concili, le dichiarazioni di una conferenza episcopale italiana, che devono essere sempre accolte con ossequio e con rispetto, non hanno valore magisteriale. Questo lo ha sancito il beato Giovanni Paolo II nella lettera, che mi sembra fosse un motu proprio data, ad tuendam fidem, dove negò esplicitamente valore magisteriale ai pronunciamenti delle conferenze episcopali. Per cui esce un documento dell'Episcopato, è ovvio che un documento dell'Episcopato bisogna accoglierlo con rispetto, devozione e deferenza, ma non c'è esercizio di magistero della Chiesa, tantomeno di magistero solenne e quindi infallibile, perché il magistero della Chiesa è infallibile solo quando è esercitato in modo solenne. Capite? Sapete quando è esercitato in maniera solenne? Con i documenti di un concilio regolarmente votati e approvati, oppure quando il Papa parla solennemente ex cathedra, cosa che fino adesso è successo nella storia della Chiesa sicuramente due volte, se non tre, come io penso, ma come qualcuno nega. Dogma dell'Immacolata Concezione, Beato Pio IX, dogma dell'Assunzione di Maria, Pio XII, e non ha usato esplicitamente il termine, però ha fatto capire l'intervento del beato Giovanni Paolo II quando negò che la Chiesa ha il potere di ordinare prete una donna. Usò delle espressioni in virtù del compito che il Signore mi ha dato come successore di Pietro di confermare i fratelli nella fede. Io dico che la Chiesa non ha ricevuto il potere di ordinare prete le donne e voglio che questa sentenza sia ritenuta in maniera definitiva nonostante qualunque opinione contraria. Cioè, lui ha enunciato tutti i requisiti che ci vogliono canonicamente perché un provvedimento sia considerato, da un punto di vista dottrinale, infallibile e irreformabile. Quindi, capite? Si deve trattarsi di magistero solenne, esercitato attraverso documenti ufficiali che abbiano questo titolo e che riguardi questioni di fede o di morale. in senso stretto. Se un papa dicesse, vi faccio un esempio, il capitalismo è il sistema economico benedetto da Dio e il comunismo è il sistema economico maledetto da Dio, in questo, come dire, in questi termini, ci sarebbe la possibilità di dubitare che stia esercitando un magistero infallibile, perché questa motivazione, questa valutazione è una valutazione che cade su un sistema economico. Tu devi pronunciarti in senso stretto su materie di fede e di morale, d'accordo? Quindi si può dare un giudizio su questi sistemi soltanto una volta che uno li analizza a fondo, vedendone le conseguenze morali sulla vita delle persone, non sul sistema in se stesso. Capite? Questo perché io vedo in giro anche, cioè, vi faccio un esempio, in una catechesi il beato Giovanni Paolo II disse una cosa che è opinabile, non è affatto un dogma di fede. Allora, voi sapete che è dogma di fede che esistono l'inferno, il purgatorio e il paradiso. D'accordo? Però se io vi chiedessi, ma l'inferno, il purgatorio e il paradiso dove stanno? Sono dei luoghi precisi o sono delle condizioni? Allora, se uno studia la tradizione, si vedrà che il modo con cui sono state concepite queste realtà, prevalentemente, è stato quello di veri e propri luoghi dove all'interno dei quali si vive anche una condizione di dannazione nell'inferno, di beatitudine nel paradiso, di purificazione nel purgatorio. Il beato Giovanni Paolo II, durante una pubblica catechesi, disse che secondo lui questa, come dire, identificazione locale di questi, di queste realtà era sbagliata. Cioè, è semplicemente una condizione, uno stato dell'anima dopo la morte. Apri, dice, allora, lui gli stava facendo una catechesi del mercoledì. Una catechesi del mercoledì non fa parte del magistero solenne e infallibile, anche se essendo una catechesi è magistero ordinario, quindi va ritenuta con rispetto. Ma capite, bisogna fare attenzione. Quindi non è che la prima cosa che dice, che cioè il Papa parla in tanti contesti, certamente il Papa parla sempre da Papa, cioè quando parla il Papa è il Papa, per questo che i Papi devono stare molto attenti a quello che dicono, perché anche se il Papa parla affacciato dalla finestra, anche quello che dice in un momento, come dire, non solenne, magari informale, anche quando parla a braccio con i fedeli, ha una risonanza pubblica. Ma questo non significa che questo crei un chissà quale precedente magisteriale, che guai a chi dice, a chi si discosta anche di un millimetro da quello che il Papa ha detto mentre sta a salutare persone. Sarebbe assurda una cosa di questo genere. Non è così. E vi parla una persona che, per quanto informatevi anche in giro, insomma, ha una fedeltà e una lealtà al magistero della Chiesa assoluti. Assoluti. Quando si tratta di magistero della Chiesa. Il magistero della Chiesa non coinvolge, e non, specialmente quello solenne e infallibile, non ha uno spettro d'azione così grande e così vasto. Sulle cose che vi ho detto, esiste il paradiso? Sì. Esiste il purgatorio? Sì. Esiste l'inferno? Sì. L'inferno eterno e il paradiso eterno. Il purgatorio è temporaneo. Nel paradiso c'è la visione beatifica, nel purgatorio c'è la pena del danno e la pena del senso. E nel è temporanea, nel purgatorio, nell'inferno c'è la pena del danno, la pena del senso, la dannazione eterna e la visione dei demoni. Basta. Poi su altre questioni accessorie, dove si trovano, dove stanno, esiste anche il limbo, non esiste anche il limbo, sono materie di libera discussione. Quindi non sono coperte dal dogma. Per cui io posso dire che il limbo esiste, io ci credo che il limbo esiste, e un prete può dire che il limbo non esiste, ma nessuno può cominciare a dire il magistero della Chiesa, anzi. Se uno studia bene, per quanto riguarda il limbo, io lo studiate queste cose, alcuni pronunciamenti magisteriali danno da intendere che chi li ha formulati, anche sotto pena di anatema, pur non nominando la parola limbo, avesse però di mira quella particolare condizione che hanno le anime, che non soffrono e che non godono, che si trovano al limbo per certe condizioni. Comunque di questo si può discutere, d'accordo? Né il fatto che la Pontificia Commissione Teologica abbia emanato un documento dove manifesta delle perplessità e dei dubbi circa la supposta esistenza del limbo, vuol dire che il limbo non esiste, giorno dopo sui giornali. I pronunciamenti della Pontificia Commissione Teologica non hanno valore magisteriale, numero uno, sono degli autorevoli pareri dati certamente per impulso del Santo Padre su alcune questioni che hanno bisogno di essere approfondite e studiate, ma questo non è un problema. Allora, il Papa faccia un pronunciamento vincolante sulla base di quella risultante e tutti diremo che il limbo non esiste, ma non l'ha fatto ancora. Capite? Oggi c'è una grandissima confusione in giro su questo. E il Papa qua, il Papa là, a destra, a sinistra, e il Concilio ha detto, il Concilio ha detto, sapete quante volte mi sono trovato a discutere con le persone, il Concilio ha detto, dico, ma dove ha detto il Concilio? Io ho fatto la tesi dottorale su queste cose qui, eh. Io i documenti del Concilio li ho letti tutti, dalla prima riga del primo documento, che è la Sacrosanto Concilio, ma all'ultima riga dell'ultimo, che è la Gaudium et Spes. Quindi il Concilio ha detto, per favore, mi fai vedere dove sta scritta questa cosa? Nei termini in cui tu la esponi, non c'è. Quindi attenzione, vi prego, su questo, no? Chiudiamo questa parentesi. Quindi attenzione anche a identificare correttamente il magistero, perché si possa parlare di magistero ordinario, ci devono essere normalmente dei documenti scritti, d'accordo? Quindi. Una lettera enciclica, un'esortazione post-sinodale, una lettera motu proprio data, una lettera apostolica, sono varie le forme con cui il Papa si esprime, no? E per quanto riguarda il magistero episcopale, che quando ha valore magisteriale in senso stretto e vincolante, si esercita sempre in comunione col Sommo Pontefice, mai senza di esso, questo ricordiamolo, anche quando si tratta di esercizio collegiale. Questo almeno fino ad oggi è stato sempre il magistero della Chiesa, eh? Quindi devi avere un documento di un concilio votato dai vescovi, approvato dal Papa e promulgato dal Papa, e allora possiamo discutere. Basta però. Ecco. Allora, detto questo, anche perché dobbiamo enucleare questi benedetti principi e così concludere, vediamo un attimo i principali punti dottrinali che costituiscono l'ottica sociale della Chiesa. Sono una decina, ecco, diciamo così, un po' il decalogo della dottrina sociale della Chiesa. Quali sono? Numero uno, il primato della persona e della famiglia rispetto allo Stato. Oggi si parla sempre di Stato, di Stato, di Stato, di Stato, di Stato. Ma quale Stato? Agli occhi di Dio conta la persona, non è individualismo questo, perché la persona c'ha l'anima. E se vi ricordate le parabole della pecorella smarrita, del figlio il prodigo, dinanzi a Dio una sola persona vale come tutte le altre messe insieme, perché per Dio uno più uno fa uno, non fa due. Perché il valore di una sola anima, vi ricordate Gesù nel Vangelo? Dio non vuole che nemmeno uno solo di questi piccoli si perdano, non vuole, perché vuole un'anima inestimabile. Quindi uno Stato può legiferare, ha ragione di esistere, quando tutto il suo ordinamento è al servizio della persona, non è un angariare la persona, o peggio ancora, un prevalere o un mortificare. Pensate agli stati etici, di destra e di sinistra, ai regimi totalitari comunisti o nazisti, quello che volete, che pretendono di fare dello Stato il Deus ex machina a cui tutto deve subordinarsi, a cui tutto deve piegarsi. Che lo Stato educa i figli delle famiglie, cioè ti faccio l'educazione di Stato a scuola e tolgo alla famiglia il potere di educare. Ah, oh, ma stiamo scherzando. Stiamo scherzando. Questo è assolutamente contrarissimo, contrarissimo a ciò che la Chiesa insegna sulla dignità della persona e al primato della persona e della famiglia rispetto allo Stato. Della famiglia rispetto allo Stato. Che deve servire queste due cose, non il contrario. Secondo punto, il rifiuto delle ideologie totalitarie atee, soprattutto, ma non solo, il comunismo, e del suo opposto economico-politico, cioè il liberismo, il capitalismo liberista selvaggio. Il capitalismo liberista selvaggio, come ha ben scritto il beato Giovanni Paolo II, è Sapete che gli estremi si toccano sempre, eh? Mette come centro il dio soldo, il dio denaro, e calpesta la dignità della persona, perché in nome del profitto e del dio soldo io posso fare qualunque cosa. Le leggi del mercato, vi ricordate, da Adam Smith, laissez-faire, facciamo la guerra, chi ha gli attributi resta nel mercato perché è competitivo, e chi non è competitivo muore di fame, e se andasse dove se ne deve andare, morto senza pietà, fuori, né buono. Non va bene questo qui. Quindi il capitalismo liberista, quindi lo strapotere del mercato che regola tutti i rapporti economici tra stati, imprese e persone, non può essere. E oggi non ci stiamo tanto lontani, eh? La Chiesa ha sempre detto benissimo, l'economia di mercato può andare bene, ma lo Stato deve temperare, intervenire. Cioè, quindi la deve governare questa realtà in modo tale che non si esplichino giustizie, in modo tale che i più deboli siano aiutati, d'accordo? E in modo tale che le esigenze del mercato non vadano a ricasco come vanno oggi, sempre della povera gente. Avete visto? Cioè, questa è vita reale, eh? D'accordo? Perché arriva l'Europa e ti dice il debito pubblico deve stare entro il 3%, 3%. Tu non c'hai i soldi per far arrivare lì, che facciamo tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse, tasse. Eh no, eh? Boh, non si può fare così. Non si può fare così. Inventati qualche altro sistema. Terzo punto. Per quanto riguarda la cosiddetta democrazia, che sembra oggi che la democrazia sia... Allora, effettivamente il magistero della Chiesa ha avuto una posizione di moderata accoglienza verso il modello di governo democratico, moderata accoglienza che a me sembra tanto, guardando bene le affermazioni, come dire, motivata dai principi aristotelici che dicevano la democrazia tra le forme peggiori di governo è la meno peggio, perché le forme migliori di governo, per esempio l'oligarchia o la monarchia, sono migliori ma sono pericolose, perché se ti capita un re matto e che non osserva la giustizia, dopo nessuno lo ferma. Ecco. D'accordo? Questo non vuol dire che la Chiesa si sia democraticizzata. Ho letto un articolo di un bravo sacerdote, non mi ricordo come si chiama, Ariel Gualdo, adesso non mi ricordo, che diceva, c'era una citazione sul periodico Il Timone, che vi consiglio vivamente, che diceva: attenzione, la democrazia è presente in alcuni settori della Chiesa, no? Anche il Papa viene eletto a votazione tra i cardinali, no? Ma la ratio della democrazia è completamente differente, d'accordo? Perché mentre nella concezione politica la democrazia significa che il popolo che ha il potere lo delega attraverso il voto, ne delega l'esercizio ai suoi rappresentanti. Nella Chiesa non funziona così, perché nella Chiesa il potere viene direttamente da Gesù Cristo, dall'alto, che lo partecipa ai suoi ministri, papa, vescovi e sacerdoti, ciascuno secondo il proprio grado. E le forme di esercizio di questo potere divino in alcune circostanze vengono espletate in modo democratico, ma completamente differente il concetto, eh? Chiusa parentesi. Quindi a fianco a una moderata accoglienza del metodo democratico c'è anche un occhio di favore verso il cosiddetto, oggi lo chiamiamo il welfare, cioè un ampliamento, vi ricordate il discorso fatto la volta scorsa, delle sfere tradizionali di competenza dello Stato, vi ricordate, giustizia, sicurezza e ordine pubblico, verso altri settori della vita sociale, per esempio, ma non solo, la salute o la tutela del lavoro, finalizzati alla tutela delle fasce più deboli, senza che però ciò degeneri, ci sono dei passaggi molto importanti, in statalismo. Cioè che lo Stato tutto deve passare per lui e fa una burocrazia pazzesca, come oggi succede, o assistenzialismo, cioè che si sovraccarichi di talmente tante cose, vedete che ogni tanto scoppiano gli scandali all'INPS, che ne fai talmente tante di forme di scappatoio che poi ci marcia anche chi non ha diritto assolutamente a nulla. Ecco. Quarto punto, la tutela dei diritti dei lavoratori che sono più immediatamente attinenti alla vita di fede. La Chiesa ha combattuto fin dai tempi di Leone XIII per il riposo domenicale. Per esempio, per il giusto salario, per il diritto alla vita, quindi la tutela della maternità delle donne che lavorano, e per la predisposizione di varie forme di salvaguardia e di tutela delle posizioni più deboli nel mercato, o quelli che si chiamano per esempio oggi gli ammortizzatori sociali. Un povero operaio che l'impresa sta in difficoltà e deve metterlo fuori. Anziché licenziamento lo mettiamo in cassa integrazione guadagni, in modo tale che quel poveraccio non lo metti in mezzo a una strada. Chiaro che su questi interventi la Chiesa è sempre stata favorevole, no? Poi, quinto punto, i principi di solidarietà tra stati e dentro ogni singolo stato e di sussidiarietà. Attenzione, questo è un principio molto importante, nella gestione delle risorse dello Stato. Che cosa vuol dire la sussidiarietà? Questo è un principio conosciuto per la verità anche nel diritto costituzionale italiano, anche se mai perfettamente messo in pratica. Vuol dire con ciò, anzitutto, una disponibilità operosa all'aiuto reciproco dinanzi a forme di bisogno di povertà, quindi solidarietà nello Stato e tra Stati. E sussidiarietà vuol dire decentrare, laddove è possibile, competenze e attribuzioni alle autorità più periferiche. Perché? Perché questo consente una maggiore partecipazione ai cittadini e anche una forma maggiore di controllo e di tutela. Capite? Quindi il maggior decentramento possibile dei servizi, sempre in nome del primato e del bene della persona che guida come dire, con una bussola i principi della dottrina sociale della Chiesa. Sesto punto, la salvaguardia della pace e della concordia fra le nazioni come obiettivo primario e prioritario. Questo c'è. E anche la predilezione ordinaria e sistematica dei mezzi diplomatici e pacifici per la soluzione delle controversie tra gli Stati. Tenendo presente però, e lo vedremo al punto decimo, che non è stata abolita la cosiddetta dottrina della guerra giusta, e adesso vedremo tra poco che comunque l'azione della Chiesa mira a evidenziare la necessità di salvaguardare la pace e la concordia fra le nazioni e in caso di conflitti e tensioni usare i mezzi diplomatici e pacifici per la soluzione delle controversie. Questo vale anche per noi, questo è scritto nel Vangelo. Dice, mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei per via con lui, perché non ti consegni al magistrato, il magistrato alla guardia, e la guardia ti sbatta in prigione, non ne uscirai fino a quando non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Anche tra noi figli di Dio, anche nelle tensioni familiari, tra fratelli, tra padri e figli, nelle tensioni sociali. L'Italia, io ho lavorato nel campo della legge, cioè il Tasso è il paese più litigioso sicuramente d'Europa. Maggior numero di cause civili presenti in Europa, almeno quando io lavoravo, era in Italia. E stanno sempre tutti a litigare. Che te litighi? Con tutto quello che ti costa una causa, tutti i tempi delle. È sempre meglio trovare, questo è un principio che dovrebbe essere la guida della nostra vita cristiana, una soluzione pacifica e concordata a liti e controversie. Ancora, attenzione privilegiata al bene comune degli stati e la Chiesa spinge per una ragionevole regolamentazione del mercato e delle iniziative economiche, onde non scadere in quello che abbiamo chiamato il liberismo selvaggio. Punto 8. La promozione e la tutela in tutte le forme e a tutti i livelli della famiglia fondata sul matrimonio come cellula primaria della Chiesa e dell'umano consorzio, unitamente quindi alla lotta decisa a tutto ciò che dal di dentro o dal di fuori possa minare l'unità e la stabilità della famiglia naturale fondata sul matrimonio. Quindi la Chiesa sarà sempre contro. Divorzi, sempre. Aborti, sempre, riscuotono la vita. E forme alternative di riconoscimento alle unioni tra unioni civili che siano diverse dal matrimonio. Chiaro? Sarà sempre così. Perché la Chiesa sa che solo la famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna promuove il bene reale delle persone, degli stati e degli individui sulla base di un principio molto semplice, d'accordo? Seguire la legge naturale. Punto e stop. Il Padre Eterno ha voluto che un uomo e una donna si unissero e generassero al mondo dei figli? Sì, vuol dire che questo norma il bene oggettivo. Punto. Che altri la possano pensare diversamente, padronissimi di farlo. Che la Chiesa sottoscriva altri modi di pensare, la risposta è no, pur con tutta l'accoglienza, il rispetto e la carità che si deve avere verso chi la pensa diversamente da te. D'accordo? 9. Una giusta rivendicazione del diritto della Chiesa, questo è un altro punto chiave, di avere e di gestire delle proprie scuole. Abbiamo visto che gli stati totalitari avevano come pretesa quello di educare le persone. La scuola è un ambiente importante, ragazzi carissimi, perché la scuola non è soltanto imparare a leggere, a scrivere, a fare i conticini e a studiarti la storia come sciorinamento di eventi, di date, di nomi. Non è questo. Dentro la scuola viene trasmesso un pensiero, viene trasmessa un'educazione e non tutte le forme di pensiero e di educazione sono compatibili con quello in cui noi crediamo. Allora, noi vogliamo che non è possibile che un'università statale costino, non lo so, dico un numero, 1.500 euro di tasse. E se il mio figlio sta all'Università Cattolica del Sacro Cuore deve pagare 9.000, io me ne sto inventando i numeri, può darsi che sbaglio. Non è possibile, perché questo non è garantire il diritto alla equa e all'istruzione di tutti. Tu mi stai praticamente obbligando, se io non sono abbiente, a mandare mio figlio alla scuola pubblica. Quindi devo per forza adeguarmi alla tua modalità educativa. E quindi è inutile che tu, in linea di principio, dici che l'istruzione è libera, perché se di fatto mi costa una barca di soldi, e non è che le scuole private vogliono mettere una barca di soldi, ma quelli i professori li devono pagare, non ci vanno gratis. Chi li paga? Punto interrogativo. Se non interviene lo Stato, chi li paga i professori della scuola pubblica? Li paga lo Stato, li paga. Non è che con 1.500 euro di tasse al studente ti paghi tutto quanto l'apparato dell'università, no? Nessuno di noi è così ingenuo di pensare. Chi ci rimette gli altri soldi? Ci rimette lo Stato. E gli altri? È giusto che lo Stato garantisca soltanto l'istruzione pubblica? Punto interrogativo. In questo caso si crea un monopolio da un punto di vista dell'istruzione. E viene leso il diritto della famiglia di educare i figli come meglio credi. Io voglio mandare a scuola buddista, li mando alla scuola buddista. Voglio mandare alla scuola islamica, se esiste, li mando alla scuola islamica. Lo Stato non deve preoccuparsi di questo, deve soltanto mettere tutti in condizioni di poter scegliere l'indirizzo educativo a loro consono. Io sono cattolico, cattolico. Quello è shintoista, shintoista. Quello è brahmanesimo, brahmanista, è quello che vuole. L'ultimo punto, e concludiamo, è il rifiuto della guerra come strumento di soluzione delle controversie. E una sempre maggiore tendenziale condanna, fino all'esclusione assoluta, della pena di morte. Ormai sembra che il Magistero vada in questa direzione. Però per quanto riguarda il primo punto, restano le posizioni tradizionali sulla cosiddetta guerra giusta o inevitabile, che secondo il 2309 del Catechismo della Chiesa Cattolica coincide con la legittima difesa con la forza militare. Quindi è possibile difendersi in caso di ingiusta aggressione anche usando la forza militare. Ancora, e la non illiceità assoluta, almeno in linea di principio, della pena di morte. Non dobbiamo scandalizzarsi. Catechismo Chiesa Cattolica 2266. Quando questo sarà cambiato, cambieranno le cose, ma per ora ancora non è stato cambiato. L'insegnamento tradizionale della Chiesa, cito, ha riconosciuto fondato il diritto e il dovere della legittima autorità di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto, senza escludere, ovviamente, in casi di estrema gravità, la pena di morte. Quindi questi sono i 10 principi generalissimi su cui, diciamo così, è venuto convergendo il magistero della Chiesa e che costituiscono il corpus fondamentale su cui poi tutto il più articolato insegnamento della Chiesa su questo campo si articola. Io vi saluto tutti quanti, dandovi appuntamento, se crederete, a martedì prossimo, dove, a Dio piacendo, cominceremo l'ottavo comandamento. A tutti la mia benedizione. Ave Maria.